buonasera da Max Macchia in questo insolito orario. Per 451 qualcuno potrebbe aspettarsi frammenti sonori, in realtà 451 intersezioni. Intersezioni e ci intersechiamo, insomma, di fatto con un personaggio che conoscete bene, insomma, perlomeno per quanto riguarda 451 frammenti sonori, che è Eliseo Scarpa. Qua c'è tocca, caro mio, siamo tornati insieme qua da Radio Fujiko. Ci sei, se ci sei batti un colpo. Adesso sì, sei tremendamente presente, però aspetta un secondo che vediamo di capire. Siamo sul serio a questo giro, caro? No, non ci siamo. Ci ritroviamo. Beh, abbiamo fatto la solita. Comunque sono Eliseo Scarpa, questo famoso conduttore. Sì, famoso conduttore. Per noi, cioè, per noi siamo famosi, insomma. No, abbiamo avuto qualche problemino tecnico, ma ci sta, essendo la prima, anzi, la puntata zero. Qualcuno direbbe il bello della diretta. Anche il brutto, per certi versi. Sì, per il tremendo. Per il tremendo. Comunque sì, effettivamente Max Macchia ha presentato più che degnamente questo nuovo spazio. Ho detto due cose. Ma faccio l'ospite, no? No, che ovviamente gli ascoltatori non ci possono vedere, però siamo suddivisi, sì, Max in regia, io sto nella saletta degli ospiti, però va bene così. Prima o poi riusciremo a stare. No, ma mi piace l'ospite, sì, se non lo facevo mai. Oltretutto, vabbè, questa è una cosa nostra, è inutile parlare di robe interne, perché sennò sembra che facciamo la radio per noi. La facciamo poi. La facciamo anche un po' per noi. E vabbè, 452, però questo lo facciamo per loro. Sì. Un po' per voi, un po' per noi, un po' chissà per intrecciare, intersecare, anzi, quello che è stato un percorso piuttosto eccezionale, quello di Pierantonio Pezzinga. Vado io, poi dopo, come dire, l'ospite diventa poi in realtà il protagonista della faccenda. Poi non so perché ci siamo incastrati qua con ospiti, non ospiti, ma va bene. Gioco di ruoli, è gioco di ruoli, sì, facciamo anche noi giochini di ruoli. Dopo molti anni, insomma, di conduzione, di sperimentazione sulle musiche sperimentali di matrice impro radicale e musiche contemporanee, dall'elettronica all'elettroacustica, e soprattutto un atteggiamento che tante volte, insomma, ha toccato 451 anche frammenti sonori, quello di non creare uno steccato tra linguaggio musicale linguaggio politico, quindi tra radicalità musicale, sonora e invece appunto quello che potrebbe sembrare apparentemente, insomma, staccato come linguaggio appunto legato più al sociale, al politico. E in effetti poi la sintesi potrebbe proprio trovarsi nel linguaggio sperimentale, proprio nel vero senso della parola. E non abbiamo tra l'altro iniziato a caso con Enrico, sia per omaggiare insomma uno dei gruppi preferiti di Pier Antonio Pezzinga, ma anche insomma uno dei momenti probabilmente tra i più importanti, sia per il decennio anni 70, quindi il decennio di grande politicizzazione, sia perché di fatto Enrico non si trattò neanche di rottura, andava di pari passo, era tutta una cosa la sperimentazione su vari tipi di linguaggio, tant'è che arrivarono, ma poi appunto questa puntata speciale dedicata appunto a Enrico, questa puntata zero di 451 intersezioni, ha proprio questa formazione, questo progetto, e così anche intendiamo progetto politico, musicale, collettivo, è quello appunto di diffondersi, e tant'è che si fuse anche con Sdre Pepi, e dopo capiremo anche che cosa è successo. Eh sì, effettivamente è così, e adesso è un nuovo progetto radiofonico che abbiamo costruito insieme a Radio Fujiko, 451 intersezioni, che da oggi, puntata zero, inizierà il percorso di questa stagione 2014-2015, e ci sarà, giusto ricordarlo, i primi tre lunedì di ogni mese, mentre il quarto lunedì, quello finale di ogni mese, sarà una sorta di spazio aperto, collettivo, dove vari persone e vari amici e anche colleghi di Pier Antonio Pezzinga porteranno un loro tributo, costruiranno delle puntate, delle trasmissioni particolari, mantenendo appunto anche quel collegamento con un progetto radiofonico che è durato decenni da parte di Pier Antonio, in esperienze radiofoniche anche differenti, e questi ultimi anni l'ha portata avanti con intersezioni e inediti live all'interno di Radio Fujiko. E dunque per noi era fondamentale mantenere in vita un filo rosso di collegamento con Pier Antonio, oltre che colleghi radiofonici anche ovviamente molto vicini a livello musicale, c'era chiaramente anche una forte amicizia, un forte collegamento anche politico con Pier Antonio, e dunque abbiamo pensato insieme a Radio Fujiko a continuare quel percorso, ovviamente esplicitando una novità che è appunto la nostra come conduzione di 451 frammenti sonori, e questo ha voluto appunto costruire questo nuovo spazio che si chiamerà 401 intersezioni. Chi era? No, non lo so, anche la seconda. È uscito anche un rospo. Forse sì, le pernacchie. Ci fanno le pernacchie. Gli strumenti ci fanno le pernacchie. Cosa vuoi? Vabbè, tanto lo sai che con la tecnologia c'è sempre questo. No, ma poi la pernacchia mi ha fatto uscire anche un po' il rospo in gola. Vabbè, dunque si vede che era collegato. Sono i classici rospi. Però non iniziamo subito con i rospi, che qua. Hai ragione. Hai ragione. Comunque, ritornando al punto, per essere veloci, perché sennò dopo rischiamo di essere anche problematici, avremo appunto questo spazio 451 intersezioni ogni lunedì dalle 8, dalle 20 alle 21.30. E manterremo ovviamente sempre lo spazio di 451 frammenti sonori ogni mercoledì, questa volta tutte le puntate ogni mercoledì del mese, non abbiamo spostamenti. È ovvio che è tutto in costruzione, quindi anche il discorso delle tre o quattro settimane, insomma, si vedrà nel corso del tempo. È un appunto work in progress, un lavoro aperto, insomma, come d'altronde, insomma. Le opere aperte ci interessano, e come da ste parti. Certo. Partiamo con il primo album degli Enrico, che appunto oggi avremo questa puntata speciale dedicata al gruppo che amava in assoluto di più Pier Antonio Pezzinga, con il primo disco, Leg End, uscito nel 1973. Abbiamo selezionato due tracce da questo disco, esattamente Amygdala e Ten Beat. Thank you.

siamo rientrati in diretta, 451 intersezioni, Radio Fujiko, e adesso appunto presentiamo questi due brani che abbiamo orora ascoltato, splendidi lavori del 1973, l'album è Leg End, e appunto la formazione importantissima, storica, fondamentale negli anni 70 degli Jericho. Jericho, anche indichiamo anche i musicisti, perché insomma sono musicisti non da poco: il grande chitarrista Fred Frith e Tim Hodgson alle tastiere, Geoff Light ai fiati, e questa formazione oltretutto in cui successivamente si aggiungerò anche John Greaves al basso e Chris Cutler alle percussioni, formazione che poi oltretutto è nata in questa importantissima situazione artistica e intellettuale come quella di Cambridge, al campus di Cambridge nel 1969, e chiaramente fa parte di tutta quell'ondata che ha caratterizzato la cosiddetta scuola di Canterbury degli anni 70, formazione assolutamente fondativa per molte musiche sperimentali degli anni 70, un jazz rock che poi ovviamente si collegava alla scuola di Canterbury, a un certo prog, però sempre molto molto ricercato ed avanguardia, perché insomma sul prog finiamo spesso anche in situazioni un po' imbarazzanti, userei questo termine, e gruppi ancora vivi, un po' morti anche, che si ripropongono in maniera abbastanza paradossale in questi anni, nel 2014, facendo le stesse cose che c'erano forse anche già vecchie negli anni 70, cosa che invece non riguarda gli Jericho, anche se chiaramente si sente un suono e una ricerca armonica e melodica che ricorda sicuramente quegli anni, ma in un'ottica molto molto proiettata verso il futuro. L'album che abbiamo appunto ascoltato è Legend. Abbiamo selezionato due tracce, oltre alla traccia di apertura che abbiamo usato come sigla della puntata 0 di 451 intersezioni, che è appunto il primo brano, Nirvana For Mice, che oltretutto è un album, è un brano molto molto famoso e conosciuto. Legend è il nome originale, anche se qualcosa è successo, nel senso che in molte proposizioni si è letto invece un altro termine, cioè The Legend. Perché? Beh, questa è una storia piuttosto, insomma, che politicamente va chiaramente a scontrarsi con quello che è sempre stato un percorso antagonista, quello appunto degli anni 70 degli Jericho, e che addirittura portò, se andate a vedere, abbastanza così sorprendente trovare come etichetta che produsse il primo disco, Legend, la Virgin Record, che usciva dal periodo hippie e che era interessata alle musiche di confine. Se pensiamo che poi si arriverà anche ai primi momenti del punk per la Virgin, poi negli anni 80 con l'esplosione techno-pop, la new wave più commerciale, incominceranno a incassare, e poi arriviamo ai nostri giorni appunto con la Virgin, che è una delle multinazionali, e non soltanto della musica, insomma, per chi va, non so, a fare ginnastica magari sa. Sì, tra poco fanno anche le polpette, le polpette, qualche chiostro. Magari ricordiamo anche il messaggio pubblicitario, perché poi di quello si trattava. Di un personaggio famoso qua a Bologna, che poi è il primo cittadino. È vero, c'era la storia della Virgin Nero, insomma, questo gioco qua, quindi insomma attraversato, come dire, non in proprio in maniera indenne, ecco, da come state capendo, 30 anni di musica la Virgin, e comunque appunto stiamo parlando dei primi anni 70, hippie, forse qualcuno ricorderà anche la prima il primo logo della Virgin, con questo uomo e la donna che si univano, quasi una sorta di tramonto, una cosa, un'immagine molto hippie, che trovate tra l'altro anche nei dischi dei Sex Pistols, quindi fa anche abbastanza sorridere, no? I punk che erano contro gli hippie, comunque varie faccende che si sono scontrate, no? E Legend poi diventerà un disco di culto, battutissimo, The Aste, fino a che non è stato ristampato, ma è stato ristampato come The Legend of Jericho, quindi creando un mito e anche un un'operazione insomma piuttosto discutibile, perché appunto era proprio un gioco, uno stacco su un gioco linguistico, a proposito appunto di sperimentazione anche sulla lingua, di Enrico Legend, che giocava appunto anche su quella che poi all'epoca era il grande clamore del progressive inglese, loro canterburiani, quindi più ricercati, più vicini a Soft Machine, a Robert Wyatt, quindi con derivazioni quasi impazzite. Questi suoni sono però interessanti, degli scratch, sembrano quasi dei disturbi, no? Se poi prima o poi capiremo che cosa succede. Incursioni. Tanto le lotte con le macchine, insomma, sono classiche, sono classiche qua da 451, quindi insomma, anche in intersezioni continuiamo questa tradizione, no, di lottare con le macchine, e che è molto futurista, se vogliamo, come cosa, solo che poi alla fine dovremmo vincere, vediamo come va. Quello è il problema. Comunque Legend poi verrà ristampato appunto con questo titolo, che è anche piuttosto fuorviante, da come avete capito, però rimane intatto insomma uno dei lavori seminali tra Zappa, come diceva appunto Eliseo, Canterbury soprattutto, e questo prog che si sviluppa anche in una chiave piuttosto paradossale, l'avanguardia espressionista dentro, e jazz rock che va verso forme di impro radicale, quindi si trovano anche momenti, sentiremo dopo, tra poco, anche proprio di rumorismo. Tra l'altro Enrico sono anche inseriti nell'antologia del Noise della Sabrosa, ad esempio uno dei fulcri degli ultimi CD è proprio un pezzo di 10 minuti assolutamente rumorista di Enrico. E da Unrest, che diciamo rimane un disco tra virgolette molto canterburiano, poi si passa a Unrest invece, che apre decisamente Frit con i suoi chitarrismi assolutamente fantastici, stridenti, ma che portano molto lontano musicalmente la sperimentazione, e appunto una formazione che riesce a amalgamarsi anche in maniera più ricercata, se vogliamo, e quindi anche esprimere un linguaggio più articolato. Arriva appunto a Unrest e c'è un grande capolavoro come Ruins, 12 minuti di opera aperta, di musiche che si aprono veramente a 360 gradi. È una cosa che dici in genere tu, visto che mi hai copiato. T'ho copiato. Vabbè. Ruins, Enrico. Thank you. Thank you.